Barney appoggiò le braccia sul cancello e guardò con gravità una bianca stella dispettosa che gli stava facendo l'occhiolino proprio da sopra il comignolo della cucina di Roaring Able. Lei non sa niente di me. Potrei essere un omicida. È vero, potrebbe essere una creatura ignobile. Tutto quello che dicono di lei potrebbe essere vero, ma non mi importa. Ci tiene così tanto a me, Valency? Disse Barney con incredulità, allontanando lo sguardo dalla stella per posarlo sui suoi occhi, quegli occhi strani e misteriosi. Ci tengo così tanto, rispose Valency sommessamente. Stava tremando. L'aveva chiamata con il suo nome per la prima volta. Sentirlo pronunciare il suo nome a quel modo fu più dolce di quanto non lo sarebbe stata la carezza di un uomo. Se ci sposeremo, disse Barney, tornando improvvisamente a essere pratico, dobbiamo mettere in chiaro alcune cose. Oh, sì, tutto deve essere messo in chiaro, convenne Valency. Ci sono delle cose che non voglio svelare, disse Barney con disinvoltura. Non dovrà farmi domande in merito. Non accadrà, rispose Valency. Non dovrà mai chiedermi di guardare la mia corrispondenza. Mai. E non dovremo mai fingere l'uno con l'altra. Non lo faremo, disse Valency. Non dovrà neppure far finta che io le piaccia. So che se mi sposerà sarà soltanto per pietà. E non ci racconteremo mai bugie di alcun tipo, né grandi né meschine. Soprattutto non meschine, convenne Valency. E dovrà vivere sulla mia isola, io non vivrò in nessun altro luogo. È in parte per questo che desidero sposarla, disse Valency. Barney la scrutò. Credo sia sincera. Bene, sposiamoci allora. Oh, grazie, disse Valency tornando d'un tratto ad assumere un atteggiamento decoroso. Avrebbe provato assai meno imbarazzo se lui l'avesse rifiutata. Suppongo di non avere alcun diritto di porre delle condizioni, ma ho intenzione di porne una. Non dovrà mai accennare al mio cuore o alla possibilità che io muoia improvvisamente. Non dovrà mai insistere affinché io sia prudente. Dovrà scordare, scordare del tutto che io non sono in perfetta salute. Ho scritto una lettera a mia madre, eccola, dovrà conservarla. Qua dentro ho spiegato tutto, se dovessi morire improvvisamente, com'è probabile che accada. Terrà lontano da me il sospetto dei suoi parenti che io l'abbia avvelenata, disse Barney con un sorriso. Esattamente, Valency rise con gioia. Povera me, sono felice che sia finita. È stato davvero un calvario. Vede, non ho l'abitudine di andarmene in giro a chiedere agli uomini di sposarmi. È così gentile da parte sua non rifiutarmi o offrirsi di farmi da fratello. Domani farò un salto a Port Lawrence e mi procurerò una licenza matrimoniale. Possiamo sposarci domani sera, con il dottor Stalling, suppongo. Oh, buon Dio, no! Valency rabbrividì. Inoltre non acconsentirebbe. Mi sventolerebbe l'indice davanti al volto e io l'abbandonerei sull'altare. No. Voglio essere sposata dal mio vecchio Mr. Towers. Mi sposerà con questo aspetto? Domandò Barney. Un'auto di passaggio piena di turisti suonò rumorosamente il clacson, forse per deriderli. Valency lo guardò, magliettina blu di poche pretese, cappello ordinario, tuta da lavoro sporca di fango, barba lunga. Sì, disse. Barney allungò le mani sopra il cancello e prese gentilmente tra le sue quelle piccole e gelide di lei. Valency, disse, cercando di parlare con delicatezza. Naturalmente non la amo, non mi è mai passato neppure per la testa di innamorarmi di qualcuno, ma voglio che sappia che ho sempre pensato che lei fosse un tesoro. 26. Il giorno seguente fu per Valency come un sogno. Sentiva se stesse tutto ciò che faceva come irreali. Non vide mai Barney, sebbene lo immaginasse sferragliare verso Port Lawrence per ottenere una licenza matrimoniale. Forse aveva cambiato idea. Ma al crepuscolo i fari di Lady Jane illuminarono improvvisamente la cresta della collina boschiva che si estendeva oltre la strada. Valency stava aspettando lo sposo al cancello, indossava il suo abito e il suo cappello verde, giacché non aveva nient'altro da mettere. Non si sentiva come una sposa, né lo sembrava. Aveva l'aspetto di un elfo selvaggio, che fosse stato estirpato dalla verde foresta. Ma questo non aveva alcuna importanza. Niente importava, oltre il fatto che Barney stava venendo lì per lei. Pronta? disse Barney facendo fermare Lady Jane con un orribile baccano del tutto nuovo. Sì. Belen si entrò e si sedette. Barney indossava la maglietta blu e la tuta da lavoro, ma gli indumenti erano puliti. Stava fumando una pipa dall'aspetto arrogante ed era a capo scoperto. Aveva però un paio di scarponi singolarmente belli sotto la sciatta tuta da lavoro e si era rasato. Sferragliarono per Deerwood in lungo e in largo finché non raggiunsero la lunga strada boschiva che conduceva a Port Lawrence. Non ha cambiato idea, disse Barney. No, e lei? No. Questa fu la loro conversazione nelle 15 miglia di percorrenza. Tutto appariva più irreale del solito. Valency non sapeva se sentirsi felice o terrorizzata o semplicemente una sciocca. Poi si trovarono circondati dalle luci di Port Lawrence. Valency si sentì come accerchiata dagli scintillanti e famelici occhi di centinaia di grandi e furtive pantere. Barney le chiese brevemente dove abitasse Mr. Towers e Valency glielo spiegò altrettanto rapidamente. Si fermarono di fronte alla squallida casupola che si trovava su una strada fuori moda. Entrarono nel piccolo e misero salotto. Barney mostrò la sua licenza e così se l'era procurata. E anche un anello. Tutto questo era reale. Lei, Valency Stirling, era realmente in procinto di sposarsi. Erano in piedi di fronte a Mr. Towers. Valency udì Mr. Towers e Barney scambiare alcune parole, udì anche altre persone che parlavano. Quanto a lei, stava pensando a come un tempo si fosse immaginata il proprio matrimonio, molto tempo addietro, nei primi anni dell'adolescenza, quando ancora le sembrava possibile. Un bianco velo di seta e tulle con bocci color arancio. Nessuna damigella d'onore, ma una bambina che spandeva i fiori dinanzi alla sposa e indossava un abito di tulle color crema e una corona di fiori nei capelli, che recava un cesto di rose e mughetti. E lo sposo? Oh, una creatura dal nobile aspetto, vestito in modo impeccabile secondo la moda del momento. Velen si alzò lo sguardo e vide se stesse Barney nel piccolo specchio inclinato e distorto appeso sopra il caminetto. Lei, con lo strano abito e il bizzarro cappello verde assai poco adatti a una sposa. Barney in magliettina e tuta da lavoro. Ma era di Barney che si trattava e questo era tutto ciò che contava. Nessun velo, nessun ospite, nessun regalo, nessuna torta degli sposi, ma soltanto Barney per tutto il resto della sua vita. Ci sarebbe stato Barney. Mr. Snaith, le auguro tanta felicità, stava dicendo Mr. Towers. Non si era mostrato sorpreso al loro arrivo, neppure per gli indumenti di Barney. Aveva visto numerosi matrimoni bizzarri nella landa desolata. Non sapeva che Valency fosse una degli Stirling di Deerwood. Non sapeva neppure che esistessero degli Stirling a Deerwood. Non sapeva che Barney Snaith fosse un fuggiasco. Davvero, era un vecchio signore incredibilmente ignorante. Per questo li sposò e dette loro la sua benedizione con grande gentilezza e solennità e pregò per loro quella notte quando se ne furono andati. La sua coscienza non lo importunò affatto. Che splendido modo di sposarsi, disse Barney mentre metteva in moto Lady Jane. Niente chiasso né sciocchezze. Non avevo mai pensato che fosse così semplice. Oh. Per l'amor del cielo, esordì Valency d'un tratto, dimentichiamo di essere sposati e parliamo come se non lo fossimo. Non potrei sopportare un altro viaggio come quello che abbiamo fatto per venire qua. Barney ululò e premette l'acceleratore con un fracasso infernale. E io che pensavo di facilitarti le cose, disse. Non sembrava tu avessi voglia di parlare. Infatti non ne avevo, ma desideravo fossi tu a parlare. Non voglio che mi tratti come un innamorato, ma che ti comporti come un normale essere umano. Raccontami di questa tua isola, che genere di posto è? Oh, è il luogo più bello del mondo, lo amerai. Io lo amai fin dal primo istante in cui lo vidi. A quel tempo apparteneva al vecchio Tom McMurray. Fu lui a costruirvi la baracca. In inverno ci viveva e in estate l'affittava la gente di Toronto. Io l'acquistai da lui e con quella semplice transazione diventai il proprietario terriero di una casa e di un'isola. C'è qualcosa di così appagante nel possedere un'intera isola, un'isola disabitata, non è forse un'idea affascinante? Avevo sempre desiderato possederne una, da quando avevo letto Robinson Crusoe, sembrava troppo bello per essere vero. E che meraviglia! Per lo più quello che vi puoi ammirare appartiene al governo, ma non possono tassarti perché lo guardi. Inoltre la luna è di tutti. Non troverai la mia catapecchia molto in ordine, suppongo vorrai darle una rassettata. Sì, disse Valency con onestà, sento il dovere di essere ordinata. Non è che io lo desideri immensamente, ma il caos mi ferisce. Sì, dovrò mettere in ordine nella tua catapecchia. Me lo immaginavo, disse Barney con un cupo lamento, ma, continuò Valency con minor gravità, non insisterò perché tu ti pulisca i piedi quando entri in casa. No, ti limiterai a spazzare dietro di me con l'aria di una martire, disse Barney. Bene, a ogni modo non potrai mettere io in ordine nella costruzione annessa alla casa, non potrai nemmeno entrarci, la porta sarà chiusa e io terrò la chiave. La camera di Barbablù, disse Valency, non ci penserò neppure, non mi importa quante mogli ci siano appese, purché siano veramente morte. Morte come i chiodi di una porta. Nel resto della casa puoi fare quel che vuoi, non è molto grande, soltanto una grossa sala e una piccola stanza da letto, ma ben costruite. Il vecchio Tom amava il suo mestiere. Le traverse della nostra casa sono di cedro, i travicelli di abete. Le finestre della sala sono rivolte a occidente e a oriente. È meraviglioso avere una camera dalla quale si possono vedere sia l'alba che il tramonto. Laggiù ho due gatti, Benjo e Goodluck. Sono degli animali adorabili. Benjo è un enorme, incantevole demonio di colore grigio. Ha il pelo striato, naturalmente. Non mi importa un accidente dei gatti che non sono tigrati. Non ho mai conosciuto un gatto che potesse imprecare con tanta gentilezza ed efficacia come Benjo. L'unico suo difetto è che russa in modo orribile quando dorme. Luck è un micino esigente, ti guarda sempre con aria meditativa, come se volesse dirti qualcosa. Forse qualche volta ci riuscirà. Una volta ogni 1000 anni, sai, a un gatto viene concesso di parlare. I miei gatti sono dei filosofi. Nessuno dei due piange mai sul latte versato. Due vecchi corvi vivono in un pino e sono ragionevolmente socievoli. Li chiamo Nip e Tuck. Inoltre ho un modesto gufetto addomesticato di nome Linder. L'ho tirato su fin da quando era cucciolo e vive là, sulla terraferma, e la notte si mette a ridacchiare tra sé e sé. E pipistrelli. È un posto eccezionale per i pipistrelli durante la notte. Hai paura dei pipistrelli? Oh no, mi piacciono. Anche a me. Belle, strane, inquietanti, misteriose creature. Vengono dal nulla e non hanno meta alcuna. E come vanno in picchiata? Anche a Benjo piacciono, li mangia. Ho una canoa e una piccola barca con l'elica ritraibile. L'ho utilizzata oggi per andare a Port Lawrence a procurarmi la licenza. È più silenziosa di Lady Jane. Pensavo che non ci saresti andato, che avessi cambiato idea, ammise Valency. Barney rise, quella risata che a Valency non piaceva, quell'aspra e cinica risatina. Non cambio mai idea, disse secco. Tornarono indietro attraverso Deerwood, risalirono la strada per il Muskoka, superarono la casa di Roaring Gables, percorsero la rocciosa via cosparsa di margherite. La scura foresta di pini li ingoiò. Attraversarono le pinete, laddove l'aria era dolce per il profumo delle invisibili e fragili campanule delle linee che ricoprivano il bordo della strada, e poi emersero in direzione della spiaggia del Mistawis. Era lì che dovevano lasciare Lady Jane. Scesero. Barney le fece strada giù per un sentiero vicino al lago. Ecco la nostra isola, disse con ardore. Valency guardò e guardò e guardò ancora. Una diafana bruma violetta aleggiava sopra il lago, avvolgendo l'isola. In lontananza si intravedevano due enormi pini, simili a scure torrette, che battevano le mani sopra la casupola di Barney. Dietro di essi comparivano un cielo in cui ancora perduravano le tinte rosate che avevano seguito il tramonto e una pallida e giovane luna. Valency tremò come un albero che sia stato improvvisamente scosso dal vento. Qualcosa sembrò scivolarle nell'anima. Il mio castello blu, disse. Oh, il mio castello blu! Salirono sulla canoa e remarono, lasciandosi dietro il mondo di tutti i giorni e delle cose conosciute per approdare in un regno fatto di mistero e magia. dove tutto poteva accadere, tutto poteva diventare realtà. Barney sollevò Valancy dalla canoa e la adagiò sopra uno scoglio coperto di licheni che si trovava sotto a un giovane pino. Le braccia di lui la cinsero e improvvisamente le sue labbra sfiorarono quelle di lei. Valancy si ritrovò a tremare per l'estasi del primo bacio. Benvenuta a casa, cara, stava dicendo Barney. 27. La cugina Georgiana stava scendendo per la stradina che conduceva alla sua casetta. Viveva a mezzo miglio di distanza da Deerwood e desiderava andare a trovare Amelia per scoprire se Doss fosse già tornata a casa. La cugina Georgiana era ansiosa di vedere Doss, giacché aveva qualche cosa di molto importante da dirle. Qualcosa, ne era certa, che Doss avrebbe ascoltato con delizia. Povera Doss, la sua vita era stata assai monotona. La cugina Georgiana doveva ammettere con se stessa che non le sarebbe piaciuto vivere sotto il pollice di Amelia, ma adesso tutto sarebbe cambiato. La cugina Georgiana si sentiva tremendamente importante. In quel momento quasi dimenticò di chiedersi chi sarebbe stato tra di loro il prossimo ad andarsene. Ed ecco proprio Doss, che arrivava dalla strada di Roaring Gables, agghindata con un abito e un cappello verdi assai strani. Quando si parla di fortuna, la cugina Georgiana avrebbe avuto l'opportunità di svelare subito il suo meraviglioso segreto, senza che nessuno potesse interromperla. Tutto ciò fu, si potrebbe dire, provvidenziale. Valancy, che viveva da 4 giorni sulla sua magica isola, aveva deciso che sarebbe potuta andare a Deerwood per informare i propri parenti che si era sposata. Altrimenti, quando avessero scoperto che era scomparsa da casa di Roaring Gables, avrebbero potuto recarsi dalla polizia per ottenere un mandato di perquisizione. Barney si era offerto di darle un passaggio in auto, ma lei aveva preferito andarvi da sola. Rivolse un sorriso assai radioso alla cugina Georgiana, che, come ben ricordò, non era stata una cattiva creatura. Valency era così felice che avrebbe potuto sorridere a chiunque, persino allo zio James. Non disdegnava la compagnia della cugina Georgiana. Ora che le case sulla strada si facevano più numerose, già si accorse che alcuni occhi curiosi la stavano osservando da ogni finestra. Suppongo tu stia andando a casa, cara Doss, disse la cugina Georgiana mentre si stringevano la mano, osservando con sguardo furtivo l'abito di Valency e chiedendosi se indossasse o meno la sottoveste. Prima o poi, disse Valency, rimanendo sul vago. Allora percorreremo la strada assieme. Avevo un particolare desiderio di vedere proprio te, Doss, cara. Devo dirti qualcosa di assolutamente meraviglioso. Davvero? Chiese Valency. Perché diamine la cugina Georgiana faceva la misteriosa e si dava tutte queste arie? Beh, ma cosa importava? No, niente importava oltre a Barney e al Castello Blu su nel Mistawis. Chi pensi mi abbia chiamata l'altro giorno per incontrarmi? Chiese la cugina Georgiana maliziosamente. Valency non ne aveva idea. Edward Beck! La cugina Georgiana ridusse la voce quasi a un sussurro. Edward Beck! E perché tutta questa enfasi? E la cugina Georgiana stava forse arrossendo? E chi sarebbe Edward Beck? Chiese Valency con indifferenza. La cugina Georgiana la fissò. Sicuramente ricorderai Edward Beck, disse con tono di rimprovero. Abita in quell'adorabile casa sulla strada di Port Lawrence e frequenta la nostra chiesa regolarmente. Devi ricordarlo. Oh, sì, credo di sì, adesso, confermò Valency con uno sforzo di memoria. È quel vecchio con il porro sulla fronte e dozzine di bambini che siede alla panca vicino alla porta, vero? Non dozzine di bambini, cara, o no, non dozzine, neppure una dozzina, soltanto 9. 9 bimbi che contino veramente. Gli altri sono morti. E non è vecchio, ha soltanto 48 anni, è nel pieno della vita, Doss. E cosa importa se ha un porro? Oh, niente, naturalmente, convenne Valency con sincerità. Di sicuro a lei non importava se Edward Beck aveva un porro o dozzine di porri o nessun porro, ma Valency iniziò a farsi vagamente sospettosa. Attorno alla cugina Georgiana aleggiava sicuramente un'aria di soppresso trionfo. Era possibile che la cugina Georgiana stesse pensando di maritarsi di nuovo? Di maritarsi con Edward Beck? Oh, assurdo, la cugina Georgiana aveva 65 anni almeno e la sua ansiosa faccina era pressoché ricoperta di sottili rughe, quasi ne avesse 100. Eppure, Mia cara, disse la cugina Georgiana, Edward Beck vuole sposarti. Velen si fissò la cugina Georgiana per un istante, poi provò il desiderio di ridere a crepapelle, ma si limitò a dire: Me? Sì, te! Si è innamorato di te al funerale ed è venuto a consultarsi con me. Ero così amica della sua prima moglie, sai, ha intenzioni davvero serie, Doss, ed è un'ottima opportunità per te. Ha un'eccellente posizione e sai, tu non sono così giovane come un tempo, convenne Valency. A chiunque ha sarà dato dell'altro. Credi davvero che sarei una buona matrigna, cugina Georgiana? Oh, sono certa di sì, ti sono sempre piaciuti così tanto i bambini. Ma 9 sono una famiglia assai numerosa con cui cominciare, obiettò Valency. Beh, i due più grandi sono già cresciuti e il terzo quasi, ne rimangono quindi soltanto 6 e sono quasi tutti ragazzi, assai più facili da educare delle ragazze. C'è un libro eccellente, La cura del bambino che cresce. Gladys ne ha una copia, credo. Ti sarebbe di così grande aiuto e ci sono libri sulla morale e te la caveresti egregiamente. Naturalmente ho detto a Mr. Beck che pensavo che gli sarei saltata addosso, terminò Valency. Oh no, no, cara, non userei mai un'espressione tanto indelicata. Gli ho detto che pensavo avresti valutato favorevolmente la sua proposta e lo farai, non è vero, tesorino? Beh, c'è soltanto un ostacolo, disse Valency con la testa tra le nuvole. Vedi, sono già sposata. Sposata? La cugina Georgiana rimase impietrita e fissò lo sguardo su Valency. Sposata? Sì, ho sposato Barney Snaith lo scorso martedì sera a Port Lawrence. C'era un provvidenziale cancello nelle vicinanze al quale la cugina si aggrappò fermamente. Dos, cara, sono una donna anziana, stai cercando di prenderti gioco di me? Ma niente affatto, ti sto soltanto dicendo la verità, per l'amor del cielo, cugina Georgiana. Valency si sentì allarmata di fronte a certi sintomi. Non metterti a piangere in mezzo alla strada, su. La cugina Georgiana ricacciò indietro le lacrime ed emise invece un piccolo gemito di disperazione. Oh, Dos, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Te l'ho appena detto, mi sono sposata, disse Valency con calma e pazienza. Con quel Barney Snaith, beh, si dice abbia già avuto una dozzina di mogli. Ma al momento sono l'unica nei paraggi, ribatté Valency. Che cosa dirà la tua povera mamma? Gemette la cugina Georgiana. Vieni con me, lo sentirai se lo vuoi sapere, disse Valency. Sono venuta per dirglielo. La cugina Georgiana si staccò con cautela dal cancello e scoprì che riusciva a stare in piedi da sola. Trotterellò mitemente al fianco di Valency, che d'un tratto divenne ai suoi occhi una persona del tutto nuova. La cugina Georgiana nutriva un tremendo rispetto per le donne sposate, ma era terribile pensare a quello che la povera ragazza aveva combinato così repentinamente, così arditamente. Di sicuro Valency doveva essere proprio ammattita. Ma sembrava così felice nella sua follia che la cugina Georgiana ebbe la momentanea convinzione che sarebbe stato un peccato se il clan avesse tentato di riportarla alla sanità mentale. Non aveva mai visto prima di allora quello sguardo negli occhi di Valency. Ma che cosa avrebbe detto Amelia? E Benjamin? Sposare un uomo del quale non sai niente? Pensò ad alta voce la cugina Georgiana. So più cose su di lui di quante non ne sappia su Edward Beck, disse Valency. Edward Beck, vai in chiesa, ribatté la cugina Georgiana. E tuo marito? Beh, ha promesso che verrà con me la domenica quando il tempo è buono, disse Valency. Quando svoltarono e si trovarono al cancello degli Stirling, Valency proruppe in un'esclamazione di sorpresa: Guarda, il mio rosaio! Beh, oh beh, sta fiorendo! Era vero, era ricoperto di bocci. Dei grandi bocci vellutati color cremisi, fragranti, raggianti, meravigliosi. Quando l'ho ridotto in pezzi, devo avergli fatto bene, disse Valency ridendo. Raccolse una manciata di bocci. Oh, sarebbero stati stupendi sul tavolo da pranzo della veranda del Mista Wiss. Poi proseguì, sempre ridendo, sul viale, conscia del fatto che Olive fosse in piedi sui gradini. Olive, graziosa come una dea, lo sguardo rivolto in basso, la fronte leggermente aggrottata. Olive, bella, insolente. Le forme piene apparivano voluttuose nell'aderente abito di seta rosa e merletti, I capelli castano dorati si arricciavano generosamente sotto il grande e lezioso cappello bianco. Il carnato era perfetto e delicato. Bellissima, pensò Valency con distacco, ma, come se d'un tratto vedesse la cugina con occhi nuovi, senza il minimo tocco di distinzione. E così Valency era tornata a casa, grazie a Dio, pensò Olive. Ma Valency non sembrava un figlio il prodigo che, dopo essersi pentito, fosse tornato a casa. Era questo il motivo che impensieriva Olive. Appariva trionfante, indecorosa, quel vestito stravagante, quel cappello bizzarro, quelle mani piene di rose e rosso sangue. Eppure c'era qualcosa in quell'abito, in quel cappello, come Olive comprese all'istante, che mancava completamente al suo abbigliamento. Questo non fece che aumentare il suo cipiglio. Le porse con condiscendenza una mano. Così sei tornata, Doss. Fa molto caldo, ti pare? Sei a piedi? Sì. Vuoi entrare? Oh no, sono appena uscita. Sono venuta spesso per confortare la povera zietta, è stata così sola. Sto andando a prendere il tè da Mrs. Bartlett, devo aiutarla a servire. Lo ha organizzato per una cugina di Toronto, una ragazza così affascinante. Ti sarebbe piaciuto conoscerla, Doss. Credo che Mrs. Bartlett ti avesse spedito un invito. Forse ci farai un salto più tardi? No, no, non credo, disse Valency con indifferenza. Dovrò essere di ritorno a casa per preparare la cena a Barney. Faremo una gita in canoa attorno al Mista Wis al chiaro di luna questa sera. Barney? Cena? Boccheggiò Olive. Che cosa intendi dire, Valency Sterling? Valency Snaith, per grazia di Dio. Valency sventolò la fede nuziale davanti al volto inorridito di Olive, poi la superò con agilità e si diresse in casa. La cugina Georgiana la seguì, non si sarebbe persa un solo istante di quella scenata, nonostante Olive sembrasse sul punto di svenire. Olive non svenne, si avviò inebetita giù per la strada in direzione della casa di Mrs. Bartlett. Che cosa intendeva Doss? Non poteva avere quell'anello. Oh, quale nuovo scandalo stava riversando sulla sua famiglia indifesa, quella disgraziata ragazza. Avrebbero dovuto rinchiuderla molto tempo addietro. Valency aprì la porta del salotto e si trovò inaspettatamente nel bel mezzo di una lugubre assemblea degli Sterling. Non si erano incontrati con premeditata malizia. La zia Wellington, la cugina Gladys, la zia Mildred e la cugina Sara, di ritorno da un ritrovo della società missionaria, erano appena arrivate a fare un saluto. Lo zio James aveva fatto un salto per informare Amelia riguardo a un dubbio investimento. Lo zio Benjamin era passato apparentemente per dire loro che era una giornata afosa e per chiedere quale fosse la differenza tra un'ape e un asino. La cugina Stickles era stata abbastanza indelicata da conoscere la risposta. Una prende tutto il miele, l'altro tutte le bastonate. E pertanto lo zio Benjamin era di pessimo umore. Sebbene non lo avessero detto, ciascuno di loro era curioso di sapere se Valency fosse tornata a casa e, in caso contrario, quali azioni si dovessero intraprendere. Bene, ecco finalmente Valency, una cugina equilibrata e sicura di sé, non umile o sottomessa come avrebbe dovuto essere. E dall'aspetto così stranamente, sconvenientemente giovanile. Rimase in piedi sulla soglia e lì guardò, la zia Georgiana timorosa e ansiosa dietro di lei. Valency era così felice che non odiava più i suoi parenti. Riusciva persino a vedere un certo numero di pregi in ognuno di loro, quali non aveva mai notato prima, e si dispiacque per loro. La pietà la rese quasi gentile. Bene, mamma, disse con calore. Così sei tornata a casa finalmente, disse Mrs. Frederick tirando fuori un fazzoletto. Non osava recitare la parte della donna oltraggiata, ma non intendeva neppure farsi tradire dalle lacrime. Beh, non esattamente, rispose Valency, poi lanciò la bomba. Pensavo di dover fare un salto qui per dirti che mi sono sposata la notte di martedì con Barney Snaith. Lo zio Benjamin balzò su e si sedette di nuovo. Che Dio mi benedica, disse con tono piatto. Gli altri sembravano pietrificati, a eccezione della cugina Gladys che perse i sensi. La zia Mildred e lo zio Wellington dovettero condurla in cucina. Doveva portare avanti le tradizioni del periodo vittoriano, disse Valency con un sorriso. Si mise a sedere su una sedia, senza che qualcuno l'avesse invitata a farlo. La cugina Stickles iniziò a singhiozzare. C'è un solo giorno in tutta la tua vita in cui non hai pianto? Le chiese Valency con curiosità. Valency, disse lo zio James, che fu il primo a ritrovare l'uso della parola, dicevi sul serio poco fa? Sì? Intendi dire che hai veramente sposato? Sposato? Quel famoso Barney Snaith, quel criminale, quel... Sì? L'ho fatto. Allora? Disse lo zio James con veemenza. Sei una svergognata che ha perso ogni senso della decenza e della virtù e me ne laverò completamente le mani di te. Non voglio neppure rivedere la tua faccia. Che cosa ti rimarrebbe da dire se uccidessi qualcuno? Chiese Valency. Lo zio Benjamin si appellò di nuovo a Dio affinché benedicesse la sua anima. Quell'ubriacone di un fuorilegge, quel... Un pericoloso bagliore apparve negli occhi di Valency. Potevano dire tutto quello che desideravano su di lei, ma non dovevano offendere Barney. Di maledetto e ti sentirai meglio, gli suggerì. Posso esprimere i miei sentimenti senza essere blasfemo e ti dico che hai coperto te stessa di eterna disgrazia e infamia nello sposare quell'ubriacone. Saresti più sopportabile se bevessi di tanto in tanto. Barney non è un ubriacone. Lo hanno visto ubriaco a Port Lawrence, ubriaco fradicio, disse lo zio Benjamin. Se è vero, e io non lo credo, doveva avere una buona ragione. Ora vi suggerisco di smetterla con questa tragedia e di accettare la situazione. Sono sposata, non potete farci niente e sono assolutamente felice. Beh, suppongo che dovremmo essergli grati per averla davvero presa in moglie, disse la cugina Sara nel tentativo di vedere il lato buono della questione. Se lo ha fatto davvero? Chiese lo zio James a Valency, dimenticando di essersene lavato le mani. Chi vi ha sposato? Mr. Towers, di Port Lawrence. Ah! Un libero metodista! Gemette Mrs. Frederick. È come se essere sposati da un metodista prigioniero potesse essere stato un po' meno deprecabile. Fu la prima cosa che riuscì a dire. Mrs. Frederick era senza parole. L'intera faccenda era troppo orribile, troppo orribile, troppo inquietante. Era certa di doversi svegliare da un momento all'altro e dopo tutte le luminose speranze che aveva nutrito al funerale. Mi fa pensare a quelle, come le chiamate? Disse lo zio Benjamin impotente. Quelle storie, sapete, di fate che prendono i bambini dalle loro culle. Boh, a 29 anni Valency potrebbe difficilmente essere un bambino scambiato alla nascita, ribatté la zia Wellington in modo satirico. A ogni modo, era il bambino con l'aspetto più strano che avessi mai visto, persisté lo zio Benjamin. Lo dissi allora, ti ricordi, Amelia? Dissi che non avevo mai visto degli occhi simili su un volto umano. Sono felice di non avere mai avuto dei bambini, disse la cugina Sara. Se non ti spezzano il cuore in un modo, lo fanno in un altro. Non è meglio avere un cuore spezzato che un cuore appassito, dichiarò Valency. Prima che si spezzi deve avere provato qualcosa di meraviglioso. Varrebbe la pena di avere sofferto. Matta, semplicemente matta, borbottò lo zio Benjamin con una vaga e insoddisfacente sensazione che qualcuno avesse già detto una cosa simile prima di allora. Valency, disse solennemente Mrs. Frederick, preghi mai per essere perdonata di non obbedire a tua madre? Dovrei pregare per essere perdonata di averti obbedito così a lungo, rispose cocciutamente Valency. Ma non prego affatto per questo. Ringrazio Dio ogni giorno per la mia felicità. Preferirei, disse Mrs. Frederick, iniziando a piangere a scoppio ritardato, vederti morta piuttosto che ascoltare quello che mi hai detto quest'oggi.